Ci hanno raccontato invece la loro situazione, diciamo, verranno probabilmente spostate al ministero, invece voi tecnici. Uguale, uguale, esattamente uguale. L'unica differenza è che alcuni di noi tecnici hanno un tipo di contratto che è leggermente differente, che è una specie di part-time, e quindi ci trasciniamo questa specie di part-time al ministero. Il ministero e il teatro, cioè, avevano due tipi di contratto diversi, di contratto nazionale, perché uno è il contratto della funzione pubblica e questo invece dei teatri è il contratto AGIS, dei teatri stabili. Quindi questa incongruenza, non so, due tipi di contratto che sono diametralmente opposti, e per adesso non possono essere integrati come tipo d'orario, eccetera. Quindi staremo al Ministero a fare delle funzioni del Ministero portandoci appresso il contratto dell'AGIS. È una cosa completamente anomala, non si è mai vista in Italia una cosa del genere. È una delle incongruenze assurde di questa operazione fatta coi piedi, per favorire ovviamente qualcuno che non c'entra niente con, cioè, questa operazione non c'entra niente con un'operazione veramente improntata all'ottimizzazione dei costi, delle funzioni, eccetera. L'operazione di annullamento dell'ente teatrale italiano è stata un'operazione fatta, è bruttissimo a dire, ma in Italia funziona anche così, per antipatie e simpatie. C'è, cioè, qualcuno che aveva bisogno di castigare e bastonare qualcun altro e ha messo tutti nel calderone, no? E qui stiamo anche mettendo in luce in qualche modo anche il fatto che gli enti vengono gestiti con delle nomine politiche, con delle, quindi non c'è una gestione trasparente e voi lavoratori ne state pagando in qualche modo il conto. Assolutamente, non c'è la gestione trasparente, ma questa è l'altra faccia della stessa medaglia, cioè non c'è una gestione trasparente perché c'è una gestione che è totalmente improntata al personalismo e agli interessi privati, privatistici, di cordate, eccetera, che bypassano completamente le esigenze reali, ma non dico neanche della gente, delle funzioni perlomeno, diciamo, sociali che svolge una struttura piuttosto che un'altra. Cioè, affossare l'ente teatrale italiano con tutte le sue pecche è stato buttare via il bambino con l'acqua sporca, cioè con la scusa che c'erano delle pecche, che le cose non funzionavano bene, che i soldi si sprecavano, invece di ristrutturare una struttura del genere, farla funzionare bene, dargli più forza per svolgere proprio quella funzione, è stata cassata questa struttura. E è stata cassata e, appunto, dicevo, perché ci stavano degli interessi sotto. Adesso è lunga a spiegare quali sono gli interessi. Noi li conosciamo più o meno bene qua dentro. Proprio gente di governo ammanicata con personaggi, diciamo, legati al territorio per determinate progettualità, per cui l'ETI era un peso da portarsi, da trascinarsi dietro. In più ci sono state delle gelosie, quello è andato a fare il direttore generale, non ci doveva andare, eccetera, eccetera. Allora lo punisco. Morale. L'Italia non ha più una struttura, un ente nazionale per il teatro, cioè tutti i paesi importanti occidentali ce l'hanno, l'Italia non ce l'ha per questi motivi qua. È la cosa, io penso che è veramente il momento di involuzione massima della nostra. Penso che neanche ai tempi del ventennio l'Italia, cioè, ha toccato un fondo così basso, secondo me. Quindi diciamo a livello, una volta che voi sarete reintegrati eventualmente al Ministero, non avrete ovviamente la stessa qualifica di tecnici, probabilmente vi metteranno a fare altro, oppure c'è la possibilità a questo punto di essere spostati su un altro teatro, ma visto che non c'è più l'ente, poi. Allora, il Ministero non ha teatri gestiti direttamente, per cui la figura del tecnico viene perduta, viene, come dire, sciolta all'interno di funzioni che non hanno niente a che vedere col teatro, col tecnico del teatro, la funzione del teatro, e neanche dello spettacolo, perché non ci sono forme, diciamo, di organizzazione per spettacoli all'interno del Ministero. Quindi il settore dello spettacolo, che ha un tale bisogno di risorse, di professionalità, di energie, viene ulteriormente drenato di capacità, forza, perché tutti quelli che lavoravano nell'ente teatrale italiano, che era personale altamente specializzato, viene riversato all'interno del ministero a fare funzioni che non c'entrano niente. Passami la scartoffia, fai la fotocopia, metti il timbro, ripara questa presa al muro e metti la zampa al tavolino. Cioè, non lo so, è la morte, è l'ennesima smaccata dimostrazione della morte di questo settore, proprio il deterioramento totale. Cioè, io sono 25 anni che faccio il macchinista, capito che sono tecnico specializzato, ho lavorato con un curriculum lunghissimo, andrò a mettere a posto i tavolini. E voi state cercando di organizzarvi dal punto di vista come lavoratori, oppure insomma aspettate un po' di vedere quale sarà insomma la situazione? Purtroppo non siamo riusciti ad organizzarci, perché questa è stata un'operazione troppo più grossa delle nostre forze, perché l'ente totale italiano aveva pochi dipendenti. Abbiamo cercato di fare un po' di cancan all'inizio, ma la nostra forza è relativa. Poi oltretutto i teatri gestiti da Leti erano spalmati su tre città distanti tra loro, e non siamo riusciti a organizzare una forza tale per cui, ma era veramente impossibile. I sindacati sono stati completamente affossati da questa politica, diciamo, di gestione nuova del ministero, per cui i sindacati chiedono udienza, non gli viene data, chiedono delle garanzie, non vengono neanche presi in considerazione, e dall'altra parte non c'è neanche una forza di base che possa, diciamo, superare la capacità la potenza che possono esprimere i sindacati, perché non c'è di fatto. I ragazzi, le persone sono, poi oltretutto pensate che sono padri di famiglia, madri di famiglia, che poi l'altra cosa fortissima è che non ci è stato tolto il lavoro, ci è stata solo tolta una professione, per cui noi comunque siamo lavoratori comunque garantiti, anzi ti dicono: ma che vuoi, vai a lavorare al ministero, meglio di così. Cioè, l'italietta con il posto al ministero, no? Cioè, ma che vuoi? Pure il posto al ministero, cioè, ma che vuoi di più? Che gli dici? Cioè, non c'è neanche quella. Cioè, dai, monti sul tetto perché c'hai due figli da mantenere. No, perché comunque il lavoro ce l'hai. E la gente, giustamente, i ragazzi dicono pure: oh, ma chi mo fa fa? Oltretutto, molti di loro non erano neanche tecnici, che ci avevano una professionalità diametralmente opposta a quella che potrebbero andare a ricoprire al ministero, per cui l'impiegato dice pure: vabbè, impiegato facevo qua, faccio pure là. Certo, era meglio fa la programmazione della danza a livello nazionale piuttosto che mette quattro timbri su una scartoffia, però lo stipendio ce l'ho lo stesso, alla fine sai che ti dico, tanto non ce la faremo mai a ribaltare questa condizione, e quindi è andata così. Grazie. Prego. Senti, secondo me la posso dire?